Ecco qua. Ciao Alda, eccoci qui. Allora. Ciao, grazie dell'invito. Grazie, grazie a te. Grazie a te che io, insomma, qualche tuo libro naturalmente ce l'ho. Ce n'ho uno che è molto particolare, se non altro perché è Gioventù Cannibale, il libro che ha dato vita a una grande collana italiana, insomma, di stile libero Einaudi. E credo, sì. Credo che sia proprio il libro di avvio, di partenza, insomma, inventato un po' da Paolo Repetti. Allora, beh, una bella novità questa della Scuola Omero, perché abbiamo intanto una bravissima scrittrice, che è Alda Teodorani. Ecco, vai, arriva Virginia. Aspettiamo un secondo che Virginia si connette pure con l'audio. Vediamo, eccola qua. Ciao Virginia. Ciao. Ciao. Allora, chissà se ci sarai solo tu oppure altre persone, si sono prenotate, ma noi, ecco, intanto cominciamo a parlare perché registro. Alcune mi hanno chiesto anche di registrare per poi sentire un po' le informazioni. Allora, io sono Enrico Valenzi della Scuola Omero. E poi naturalmente lei è Alda Teodorani. E quindi dicevo che eravamo molto contenti di averla finalmente qui nella Scuola Omero con un corso, e come diceva Virginia Woolf, una stanza tutta per sé, qui ci avreste una scrittrice tutta per voi. Ecco, quindi Alda Teodorani, che segue addirittura individualmente, che è una cosa, uno e uno, insomma, un discente e un docente. Quindi, se vuoi Virginia, puoi anche già, se sai grosso modo quello di cui è fatto questo laboratorio, fare delle domande. Altrimenti Alda, e penso che possa pure illustrarlo lei, come preferisci, sei la padrona di casa in questo momento. In realtà, cioè, mi piacerebbe ascoltare quello che... almeno... Ah, va bene. Allora, poi magari mi faccio. Sì, sì, domande, esatto. Se si rimane qualcosa di oscuro, insomma, vuoi saperne di più. Esatto. Allora, vediamo di ricostruire, perché la parte organizzativa, mentre per i corsi normali con gli iscritti, un gruppo di iscritti, 5, 10, noi fino a 15 arriviamo, no? In questo caso è un docente e un allievo. Quindi sono 10 incontri tali e quali al corso standard. L'obiettivo grosso modo è lo stesso, perché noi di gruppo, sembra stiamo a parlare di altre cose, di sesso, diciamo, ma noi che diciamo lo facciamo in una classe di, ecco, intanto noi lo facciamo sia in presenza che webinar, mentre ovviamente il corso di Alda sarà solo in webinar, se no significherebbe andare a casa sua più o meno, ecco. Certo. Quindi è webinar. L'altra cosa è che gli incontri durano un'ora, quindi per un'ora l'allievo, l'allieva avrà Alda Teodorani per sentire da parte di Alda, poi adesso lei confermerà, ci dirà meglio, eh? Ecco. Io sto cercando di ricostruire anche per me, se lo devo raccontare, perché ecco, io come direttore della scuola tante volte chiamano e devo provare a spiegarlo, quindi Alda adesso mi dirà se lo sto spiegando così, benino, bene, ecco, vediamo. Quindi sono 10 incontri da un'ora ciascuno, una volta a settimana, in una fascia oraria che può essere, per adesso non abbiamo manco cominciato, quindi è tutto libero, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 20, che significa che uno può scegliere 17-18, 19-20, una volta a settimana. Quello è il giorno, immagino che se per caso l'allieva non potesse seguire quel giorno, magari salta la settimana dopo, oppure vi metterete d'accordo docente e allievo, però una volta a settimana la periodicità. L'obiettivo è quello che è simile ai corsi, diciamo, numerosi, con presenze numerose, perché è scrivere un racconto fino a 10-12 pagine, quindi un racconto già bello ampio, editato e corretto da Alda Teodorani. Ecco, che ovviamente in queste 10 lezioni, con un'ora a disposizione, però terrà anche una serie di lezioni legate a dei temi, e quindi adesso, ecco, sentiamo, questa è la parte organizzativa. Ah, l'altra cosa che devo dire, il costo, tutte le cose organizzative è giusto che le dica io, le ricordi io, il costo è di 300 euro per queste 10 lezioni, si può pagare in due rate, 150 e 150. Ecco, questa è la parte organizzativa. Invece per la parte dei contenuti sentiamo Alda, quello che ci può dire. Sì, allora, tenendo conto anche del fatto che comunque in corso d'opera si possono anche ampliare un po' i contenuti, anche in relazione ai bisogni di chi segue, perché il corso io l'ho ideato proprio in funzione degli allievi, di chi vuole veramente scrivere, chi desidera fare della scrittura qualcosa di più di un semplice passatempo, insomma, chi ama la scrittura, e chi ama la scrittura dovrebbe amare anche la lettura. Per cui il mio intento era proprio questo, di dedicarmi di più alle persone che desiderano davvero scrivere. E per me è molto importante, anche perché io non ho avuto purtroppo maestri quando ho iniziato a scrivere, e mi è mancato tantissimo, perché non avevo nessuno con cui confrontarmi e ero molto isolata. E per cui poi in seguito, come penso saprai, ho conosciuto altri scrittori, abbiamo parlato, però all'inizio, quando avrei avuto più bisogno, non ho avuto questa figura. E quindi so le difficoltà che può affrontare una persona quando deve lavorare da sola. Ed è stato proprio in base a quello che ho pensato quali potevano essere gli argomenti di maggiore interesse per chi comincia a scrivere, ma anche per chi ha già cominciato e ha bisogno di un aiuto. E praticamente ho capito che ci sono degli elementi fondamentali, e quindi un corso, a mio parere, un buon corso dovrebbe proprio essere formato a blocchi, a vari argomenti che sono quelli che compongono proprio sia la struttura del racconto che del romanzo. Però mi interessava anche mostrare come i vari autori hanno affrontato questi argomenti, perché ognuno ha un suo stile e, a mio parere, ovviamente io parlo per me, cioè quello che io credo, poi ci sono varie teorie, no? A mio parere il discorso dei vari argomenti è molto importante, vedere le varie situazioni per crearsi una propria individualità, perché comunque gli scrittori che veramente sono riusciti a fare qualcosa di positivo, a farsi conoscere, anche solo se non sono particolarmente noti, comunque hanno tracciato un loro percorso, è la cosa fondamentale. Cioè, a mio parere, le persone non dovrebbero scrivere tutte allo stesso modo, ognuno deve avere una sua individualità, è importante questo. Per cui faccio vedere questi brani e mostro anche come la scrittura varia a seconda che sia affrontata per un romanzo oppure per il cinema, per esempio, o come possono cambiare i linguaggi. Si inizia con la creazione dei personaggi, perché i personaggi comunque sono assai importanti, i personaggi compongono le storie. Alcuni scrittori sostengono che i personaggi riescono a creare la loro storia a volte. Ci sono degli scrittori che ti dicono: sì, io ho fatto una scaletta, però a un certo punto i personaggi si ribellano e allora prendono la loro strada e vanno avanti, portano avanti la loro storia. Quindi all'inizio facciamo questo, questo esercizio simpatico, anche un po' per rompere il ghiaccio, anche un po' per conoscerci con i tarocchi, in maniera che comunque si identificano nelle carte, nei personaggi particolari, e mi fanno anche un po' capire che cosa vorrebbe fare la persona che ho di fronte, quali sono i suoi desideri, quali sono, se ha dei punti focali nel suo carattere, nel suo modo di essere. Perché questo corso individuale presuppone che io sia molto vicina alla persona con la quale sto parlando. Ci deve essere un rapporto molto più stretto rispetto a quello che si ha in una classe, dove dai a ognuno la stessa cosa. Qui ognuno viene ad avere quello di cui ha bisogno, soltanto quello di cui ha bisogno. E però ogni persona ha dei bisogni diversi. Può capitare che abbiano lo stesso bisogno, ma in generale ognuno ha la sua strada da percorrere e dei bisogni diversi. Quindi questo esercizio con i tarocchi mi serve anche per capire questo. E poi si trattano ancora le caratteristiche dei personaggi, vediamo come vari scrittori hanno i personaggi. È successa una cosa strana, c'è una visualizzazione, non so se Enrico... Sì, sì, Alberto. Sì, Alberto. Persona, scusa, non riuscivo a capire cosa era successo. Sì, c'è un altro che sta ascoltando. E poi faccio anche vedere questo video, dove che è un extra di una nota serie TV, dove i personaggi si raccontano la loro esperienza. Questo prison break io l'ho scelto perché praticamente si svolge all'interno di un carcere, per cui i personaggi sono fondamentali perché sono tutti rinchiusi nello stesso luogo. Dopodiché la prima cosa che si fa quando si scrive un libro è affrontare un incipit, e molti scrittori si bloccano perché non riescono a capire come iniziare, e già dall'inizio hanno un timore, che è quello come si comincia a scrivere un libro, per cui affrontiamo anche quello. E poi la costruzione dei dialoghi, i brani, e anche i dialoghi devono cercare di essere spontanei, ma allo stesso tempo non troppo spontanei, perché ovviamente i personaggi nei libri non parlano come personaggi come noi, che magari ci prendiamo un caffè, ci diciamo cose completamente diverse. Quindi è una cosa da calibrare, anche questo è uno degli elementi dove molti scrittori a esserci, a farlo, insomma. E poi si parla della focalizzazione, cioè di come immaginiamo quasi di avere una macchina da presa tra le mani, è una macchina da presa narrativa, e quindi ci focalizziamo sui personaggi a seconda che parliamo in prima persona, in terza persona, oppure siamo più vicini o più lontani dai personaggi. Per esempio, che so, Hemingway era sempre abbastanza distaccato, ci sono invece scrittori che sono più coinvolti anche in quello che i personaggi provano a livello di emozioni, che è tutta un'altra cosa, per esempio, rispetto, che so, alla sceneggiatura, dove sei per forza anche molto distaccato, secondo me, non puoi esprimere quello che i personaggi provano. E poi parliamo di flashback. Ho notato, per esempio, che molti autori hanno delle difficoltà a tornare nel passato e poi a ritornare nel presente, per cui la Madeleine di Proust era solo un esempio, però poi bisogna far capire al lettore dove si è in quel momento. Cioè, la cosa fondamentale, secondo me, che dovrebbe fare chi scrive è tenersi il lettore. Come diceva David Foster Wallace, fare in modo che il lettore, dopo 10 pagine, non pigli il libro, lo butti fuori dalla finestra. È quello fondamentale. Quindi, secondo me, al lettore noi dobbiamo sempre pensare in qualunque momento, e dobbiamo fare in modo che il lettore non si stacchi dalle nostre pagine, se proprio non è completamente esausto, perché nel momento in cui si stacca, e magari oltre a staccarsi si stanca di leggere, è il momento in cui noi non sappiamo se questo lettore riprenderà a leggere il nostro libro, e se non lo riprende poi non ne comprerà un altro. Quindi è un lettore che noi abbiamo perso. Ogni volta che il lettore si blocca nella lettura perché non capisce qualcosa, è come se inciampasse, e noi non dobbiamo farlo inciampare, gli dobbiamo, secondo me, rendere il viaggio gradevole. Non gli dovrebbero capitare delle cose negative durante questo viaggio, a meno che noi non vogliamo suscitare in lui delle emozioni, però poi lo dobbiamo riprendere in qualche modo. Quella è una cosa più calibrata, ma non deve succedere per un incidente, e quindi deve sempre sapere dove si trova, non deve trovare, che so, errori grammaticali, errori di partitura, dove sono adesso, ma chi sta parlando. Sono tutti gli elementi che ci fanno perdere i lettori, su cui riflettere. E poi niente, le ambientazioni ovviamente che influiscono sullo stato d'animo anche dei personaggi, sullo stato d'animo anche di chi legge, perché se vedi un bel paesaggio soleggiato te lo immagini così quantomeno quando leggi, non è come se piove in continuazione, come succedeva nel Simple Runner, per dirti, no? Sono degli elementi che ci danno dei diversi stati d'animo, nei quali poi i protagonisti saranno immersi, e anche quello è importante per la costruzione narrativa. E poi, come concludere un libro, come lo hanno concluso i grandi autori, cosa vogliamo fare rispetto a questo libro, che emozioni vogliamo dare, e le emozioni che suscitiamo per me sono una cosa sempre fondamentale rispetto a quello che vogliamo narrare. Alda, scusa, ti posso fare una domanda? Sì, certo. Ma se si presenta al tuo corso qualcuno che vuole scrivere genere rosa, tu che fai? Prendi un paletto di frassino e glielo pianti nel cuore? Perché, ma no, ecco. Però essendo online non lo posso fare. Vabbè, dico metaforicamente, no, a parte tutto, tu accogli tutti gli autori di qualsiasi genere, gli autori in erba chiaramente, cioè. Sì. Ecco, quindi se arriva un appassionato, per esempio, di fantasy, è uguale. Stessa cosa. Magari posso calibrare i brani anche in funzione della persona che ho di fronte. È un lavorone per me, è molto più semplice fare nell'altro modo, però è comunque qualcosa che secondo me è necessario. Quindi massima accoglienza non solo per le singole voci di chi inizierà il tuo corso, ma anche per i singoli generi. Sì, non so se... Comunque, io te lo dico. Io ho avuto un ragazzo, ho fatto un corso a un ragazzo, che è autistico. E la prima lezione ero già pentita di aver accettato, perché non mi ascoltava, mi sembrava che non mi ascoltasse, non sapevo come tenere l'attenzione e non sapevo nemmeno che argomenti usare, perché era chiaro che non potevo fare qualcosa di schematico come quello che ho appena, che ho appena illustrato. E quindi gli ho ritagliato tutto appositamente su di lui, facendogli vedere anche molti filmati, leggendogli i libri. È un ragazzo che parla più l'inglese che l'italiano, per cui mettevo il brano in inglese, il brano in italiano e il relativo filmato. E poi ti dirò, l'ultima lezione lui era molto nervoso, sia perché quando finisce qualcosa, per un ragazzo autistico è drammatico, perché comunque aveva fatto l'abitudine a me. Io poi mi vestivo, mi pettinavo, mettevo sempre la stessa maglietta, sempre uguale, perché era assicurante. Certo. Per cui sempre il rosso, perché avevo detto che il rosso è più gradito. Per dire, io dopo la fine della lezione ho visto che lui era così triste che alla fine della lezione ho pianto, perché è stata un'esperienza fantastica, mi ha insegnato tantissimo. E dire che, ti dico, la seconda, la terza lezione ero ancora un po' così, poi mano a mano abbiamo ingranato. E quello a me ha insegnato tanto anche a livello di quello che posso dare alle singole persone. Da questo che dici, probabilmente è meglio avere un allievo autistico che scrive romanzi rosa. Scherzo. Scherzo, scherzo. Insomma, ecco. No, ma la scrittura ha questo potere telepatico. La scrittura è un amore, è un grande amore. E io sono felice di condividerlo con chiunque ce l'abbia, anche lui o lei. Quindi, certo, questa per me è una cosa più importante di tutte. Vogliamo sentire se per caso Virginia o Alberto hanno delle domande su questo corso individuale tenuto da Alda. Vi è venuto in mente qualcosa ascoltando? Ma in realtà tutto molto esaustivo, c'è anche la descrizione delle varie fasi che ci aiuterebbe appunto a creare, a sviluppare, cioè era una cosa che appunto mi ha chiesto, cioè come poi creare effettivamente un libro. E in realtà per adesso no, cioè tra diciamo, le informazioni un po' più amministrative che c'è dato due, no? La parte un po' più creativa che cioè, ha spiegato Alda, cioè ti sembra tutto abbastanza chiaro, insomma. Tutto chiaro. Grazie Virginia. Allora chiedo una cosa io ad Alda, cioè aspetta che silenzio. Alberto scrive che non gli funziona il microfono. Vuoi fare una domanda scritta? Ecco, se vuoi scrivere Alberto, vediamo. Intanto ne faccio una io ad Alda. Allora, tu hai detto che puoi seguire in questo arco di 10 lezioni eventualmente anche forse l'idea, l'inizio, qualcosa che riguarda il romanzo. Mettiamo che chi arriva da te per queste lezioni individuali sta battagliando già da un po', oppure ha scritto appena qualche pagina, non è soddisfatto. Insomma, con la forma però romanzo. Ovviamente in 10 lezioni, lo sappiamo benissimo, non si può scrivere granché per un romanzo, però ci si può riflettere e la domanda è questa. Allora, l'obiettivo di questo corso per fare esperienza è iniziare e chiudere in 10 lezioni un racconto, almeno un racconto. Perché anche chi non è portato, sappiamo, no? Per la forma racconto, perché sono proprio due specialità diverse. C'è qualche autore, ne diciamo uno famoso, Carver, che ha scritto poesie e racconti, ma non ha mai scritto romanzi. Keret, un autore israeliano, ha scritto solo racconti. E poi ci sono quelli che rari, che riescono a essere bravi con i racconti e con i romanzi, ma sono rari. Allora, ecco, si scriverà sicuramente un racconto di massimo 12 pagine, però la domanda è, potrai guardare anche qualcosa che riguarda il romanzo, se l'allievo ne vuole sapere qualcosa? Naturalmente alcune pagine, non è che te potrei mettere a leggere tutto il romanzo. Sì, assolutamente. Magari partendo dall'incipit. Sì, e poi mi possono preparare un riassunto, una sinossi, e posso anche esprimere il mio parere. Dopodiché in seguito poi valuteranno anche loro se vogliono poi continuare con gli appositi corsi o laboratori che fornisce la scuola, anche più specialistici rispetto al romanzo. Però comunque diciamo che questi argomenti sono specifici anche per chi comincia a scrivere, ma sono comunque adatti sia per la scrittura dei racconti che per la scrittura dei romanzi. Certo, io non posso seguire la scrittura di un romanzo perché ci vorrebbero più lezioni, ma la scuola in ogni caso la fornisce. Va benissimo, assolutamente. Allora, Alberto fa un paio di belle domande, vediamo un po'. Allora, volevo chiedere se con il corso andremo ad affrontare anche una parte riguardante i dialoghi tra i personaggi, su come scriverli e svilupparli in modo da renderli veri e vivi. Sì, esatto. Infatti, come dicevo prima, c'è proprio una parte riguardante la costruzione dei dialoghi, come si costruiscono i dialoghi, sia dal punto di vista dei contenuti, sia dal punto di vista della parte, diciamo, redazionale, perché, come immagino saprete, ogni casa editrice ha le sue regole redazionali, quindi qualche consiglio anche su quello, perché a volte, sempre alla casa editrice bisogna presentare comunque qualcosa che sia adatto a quella casa editrice, e anche le piccole cose sono importanti, per cui anche un trattino invece che una virgoletta può fare la differenza. E poi all'interno dei dialoghi, comunque, io ti dico un po' come si svolgerà anche la lezione. Io ho preso alcuni dialoghi e li ho sviluppati, ho mostrato la differenza con uno strumento che si chiama di Microsoft Word, che si chiama revisione. Ho fatto vedere la differenza tra i dialoghi, quello che viene tolto e quello che viene aggiunto in revisione, di modo da mostrare bene come si possono trasformare i dialoghi. Ho preso una parte cinematografica, ho trascritto i dialoghi e poi vi fornisco il dialogo senza tutto il resto, in modo che voi potete arricchire questo dialogo a seconda di come vi immaginate questa scena, per esempio. E poi c'è l'analisi dei dialoghi di vari autori, in modo che potete vedere come sono stati affrontati anche in relazione non solo a quello che i personaggi si dicono, ma anche a quello che i personaggi provano e anche a quello che i personaggi si scambiano mentre parlano. Cioè, non solo quello che dicono le parole, ma anche quello che è, diciamo, la sottotraccia dei dialoghi. Per cui mi sembra, probabilmente, penso di avere risposte. Sì. Quindi diciamo che alcuni argomenti verranno trattati da te in queste 10 lezioni da un'ora, per cui arriverà anche il momento in cui tu parlerai dei dialoghi. Ma naturalmente penso che mano a mano che il racconto... Ecco, una cosa che ti volevo chiedere è questa. Allora, verrà scritto il racconto, no? Come prova, diciamo, anche conclusiva, cioè si inizia e si finisce un racconto. C'è un momento che tu prevedi in cui si inizia a scrivere il racconto, vale a dire si fanno prima, che ne so, 2 o 3 lezioni di preparazione, di piccoli componimenti, e poi si parte con l'idea, sì. Quindi non sì, proprio... esatto. Ecco, non esatto. Della... E comunque chiederei anche di fare dei piccoli esercizi di 5-10 righe, niente di impegnativo, per vedere comunque che sia stato compreso l'argomento di cui abbiamo parlato. Nel frattempo, anche a scelta della persona che frequenta il corso, può decidere il momento in cui iniziare a scriverlo e può proseguire finché non l'ha terminato, e mano a mano... diciamo che è una cosa anche più personale, nel senso c'è la persona che lo può scrivere in, anche solo in un pomeriggio, sì, l'altra persona magari ha bisogno di 10 settimane per scriverlo, però 10 settimane per scrivere un racconto di 10 cartelle sono veramente tante, perché anche solo che tu scrivessi 3... non lo so, adesso non sono molto brava in matematica, ma penso che anche solo che tu scriva 4-5 righe al giorno, sì, probabilmente fai prima. Certo. Ecco, quindi. Certo. Poi dal punto di vista, diciamo così, della presentazione del racconto, mi dirai anche tu entro quanto tempo deve essere presentato rispetto alla fine del corso. Certo. Un'altra cosa, scusami Alda, poi naturalmente se Alberto e Virginia... Sto cominciando a sudare sotto le tue domande. No, no, vabbè, mo, adesso praticamente... No, sto scherzando. No. Allora, la cosa è questa. Che affrontiamo tutti... Sì, sì. Tutti... Sì, sì. Ma allora, facciamo così, oggi è la facciamo finta che oggi sia la prima lezione, no? Ecco. Il materiale che l'allievo scrive durante la settimana, ovviamente perché il tempo della scrittura è soprattutto quello a casa o dove uno al bar, dove preferisce, e il testo poi dovrà mandartelo prima della lezione oppure lo verrà letto direttamente a lezione, diciamo l'avanzamento del racconto. Dipende, nel senso se c'è da discuterne, gliene parlerò durante la lezione, ma se semplicemente devo, che so, mettere 2 virgole e dirgli va benissimo, a posto, certo, e gli mando un'email dove gli dico quello che certo penso del racconto, insomma. Ok. Perché altrimenti va a incidere anche sulla lezione della volta dopo, per cui questo diciamo, chiamiamolo programma, è molto ricco, molto, molto pregnante, ecco. Oh, una cosa che dico io come organizzatore è questa, che durante l'anno c'è un contest letterario che si chiama Il ballo delle debuttanti alla Scuola Omero, dove i migliori 10 racconti trattino autrici e autori di tutto il periodo didattico che va dalla full immersion estiva che facciamo ad agosto, quindi agosto 2022, fino ai corsi che arrivano grosso modo a lambire maggio del 2023, i vari docenti, quindi compresa da adesso anche Alda, i racconti migliori entreranno nel lotto per essere letti un pomeriggio alle 18 col pubblico in presenza alla sede fisica che abbiamo a Roma, a Monteverde Vecchio, ma anche con 6 editor di case editrici importanti che possono essere Minimum Fax, Fazzi, EO, eccetera, eccetera, perché c'è un premio poi, ci sono il premio della giuria, come a Sanremo, il premio della giuria popolare e il premio della giuria tecnica, con delle borse di studio significative da 250 euro l'una. Ecco, quindi questo lo dico perché ogni laboratorio poi con questo racconto che deve essere chiuso, questo racconto può poi naturalmente partecipare anche ai concorsi letterari. Perché ecco, una cosa che dico e che Alda sicuramente sa è che ai concorsi letterari partecipano tanti autori, no? E autrici, ma in genere vincono quelli che hanno un'esperienza in più e soprattutto la possibilità che qualcuno gli ha fatto l'editing, perché un racconto che vince un concorso letterario non può avere delle falle, deve essere compiuto, quindi avere un bel finale, un incipit, un bel finale, e tutte le cose che funzionano, come dire, senza andare fuori registro linguistico, insomma, e soltanto chi esce da una buona scuola di scrittura sicuramente avrà questo buon racconto. Quindi se volete diventare anche dei bounty killer dei concorsi letterari, cioè andare in giro e a chi è più la pistola più veloce del West, fare un corso anche, ecco, aiuta un pochino a come dire, a migliorare la propria forma, no? Narrativa e così via, ecco. Certo. Che Virginia e Alberto avete... Vi sono venute in mente delle domande nel frattempo? Alberto naturalmente sempre per iscritto. Forse no. Allora, io direi questo, che naturalmente io in particolare rimango sempre a disposizione per la segreteria di Omero, sia nella mail a scuola@omero.it, e ovviamente anche i numeri di telefono della scuola, quindi per qualunque notizia in più. È evidente che se un corso, perché lo abbiamo appena adesso pubblicizzato sul sito, quindi in questo momento c'è disponibilità in quasi tutte le ore, insomma i giorni, come potete trovare sul sito omero.it, è evidente che per esempio noi della scuola Omero, credo che le ultime lezioni, a grande richiesta di qualche corso di terzo livello, mi sa pure il 23 dicembre, faremo lezione, ecco, e però poi saltiamo e andiamo classicamente dopo l'Epifania, ecco, quindi arriveremo a ridosso così. Quindi se tra le domande inespresse c'è anche quella, ma se io mi iscrivo adesso, poi che succede? Lo chiedo ad Alda, che succede se uno si iscrive, diciamo, a partire da qui a un paio di settimane? Farai anche tu, farete anche voi la pausa, immagino, no? Comunque delle vacanze di Natale. Ma io, vabbè, non andrò da nessuna parte, per cui se c'è qualcuno che vuole fare lezione, non dico il gioco di Natale, perché, ma anche durante le vacanze per me non c'è problema, però penso che comunque alla fine non sia così. Sì, beh, diciamo che chiaramente il corso individuale è più facile, perché metti d'accordo su due persone, tranquillo. Mentre invece noi certo. Allora, la cosa bella di questo corso è anche che comunque ti puoi trovare pure in Germania, certo. In Australia per farlo, quindi questa è molto molto interessante. Allora, Alberto, che dice che c'ha un po' internet ballerino, dice sul sito: sì, sul sito trovi proprio narrativa 1 individuale, questa è la definizione, sul sito omero.it, e trovi tutte le disponibilità orarie da lunedì al venerdì. Per ora c'è soltanto quello che chiamiamo il primo livello, però ecco la domanda che posso fare adesso ad Alda. Mettiamo che, facciamo finta che Alberto abbia, o anche Virginia, abbiano già un'esperienza un pochino consolidata, cioè che abbiano fatto già un primo livello in una scuola di scrittura, no? Che non è la scuola Omero, perché in questo momento così ad occhio non li conosco come allievi della scuola Omero, però diciamo hanno frequentato un'altra scuola, no? Ecco. Sì. Che possono... Per esempio, ieri ho incontrato un mio ex allievo che mi ha detto: anche a me piacerebbe fare un corso individuale, però lui praticamente aveva già fatto un corso diverso, e poi alla fine non abbiamo approfondito l'argomento, però insomma la scuola offre delle possibilità anche a chi ha già fatto qualcos'altro. Poi se qualcuno vuole proprio parlare, diciamo, vuole farlo con la mia guida, ci possiamo accordare anche in relazione a quello che comunque pensa la scuola, perché il primo contatto è quello con la scuola che voi dovete avere. Allora, Alberto ha scritto una battuta, cioè primo livello, secondo livello, lui ha detto solo la scuola della vita, che buttava via, anzi, diciamo che no. Che... Aspetta, io ho sotto mano il link, per cui te lo passo direttamente qui in chat. Ok. Così lo puoi vedere. Bravo, mazzo. la scuola della scuola. Che tempismo. Va bene. Che dite allora? Mi pare che ci siamo. Quello che resta, diciamo, le curiosità che vi vengono in più. Io sono disponibile, ecco, per tutte le questioni. Se c'è una cosa che vi è venuta in mente dopo, la porterò io ad Alda, nel senso che le manderò una mail e chiederò: guarda, Virginia ha chiesto questo, Alberto ha chiesto questo, e quindi certo, ecco. Certo. E comunque tieni conto del fatto che prima ti iscrivi e prima scegliere il tuo orario, certo, il tuo giorno preferito. Certo. Perché comunque ti puoi frequentare sempre all'ora e al giorno che tu vuoi. Questo è un altro elemento fondamentale, perché non ti devi adattare agli orari delle classi. Esatto. Siamo noi che ci adattiamo a te per quanto possibile, ovviamente. Certo, in una fascia oraria che abbiamo detto va dalle 16 alle 20, quindi un'ora la potrei scegliere da quelle 4 ore lì che ci siamo detti, dal lunedì al venerdì, quindi un giorno alla settimana con un orario fisso che potrà essere tra quelle 4 ore. Molto bene. Va bene, allora grazie Alda, grazie anche ad Alberto e Virginia. Sembra piuttosto chiaro. Sì, ho registrato, quindi poi manderò anche alle persone che oggi all'ultimo non sono potute intervenire. Molto bene, buona serata a tutti. Ciao. Una cosa ti vorrei chiedere. Sì. Questo filmato che noi abbiamo fatto ora, che tu hai registrato. No, io ho registrato l'audio. L'audio. Solo l'audio, sì. Se qualcuno me lo chiede. Ah, ma sì. D'accordo. Lo conservo. Ciao. Ciao. Ciao. Buona serata. Buona serata a tutti. Ciao. Grazie.